di patria lodigiana, il Lodi, e ha accettato ben volentieri di trattare per noi questo tema della Chiesa negli scritti di Santa Caterina, quanto nella vita e nel pensiero di questa santa, di questa mistica, la Chiesa sia una componente inscindibile, ce ne siamo già un po' resi conto questa mattina, vero? Una cristiana fino in fondo, un'anima eletta che ha con Cristo e con Dio, direi quasi un filo diretto anche per la sua vocazione mistica, e che pure in tutta la sua spiritualità non è pensabile un momento disgiunta da questa dimensione che è la Chiesa. Credo che la redazione ci aiuterà nel comprendere questi connessi e nel valutarli più a fondo. Grazie, professore. Essendo il tema della mia relazione la Chiesa negli scritti di Santa Caterina da Siena, è d'obbligo riferirci alle cose scritte da lei. E quindi noi cercheremo di estrarre i contenuti del suo insegnamento intorno a questo gran tema della fede, che è la Chiesa, e di esaminare nelle moltissime sue opere quei punti in cui il suo pensiero sulla Chiesa è espresso con particolare forza e chiarezza e significato. Risulta questo elemento primo, una chiarezza e una profondità dei contenuti della fede intorno alla natura della Chiesa. Per Santa Caterina è impossibile l'esperienza di Dio senza che questa esperienza di Dio nasca dal fatto di partecipare alla realtà della Chiesa. Non sembri questo un punto troppo scontato o troppo ovvio, perché è proprio questo il pomo della discordia, diciamo, il punto su cui è difficile approdare attraverso un cammino di fede. Infatti può capitare che non sia tanto difficile la fede in Dio, anche quella è difficile naturalmente, ma forse ancora più difficile della fede in Dio è che nasca nello spirito e maturi fino alla sua pienezza la fede nella Chiesa, per motivi che sono evidenti e su cui noi non ci fermiamo troppo. Ma Santa Caterina, che ha tanto operato all'interno di questa struttura comunicativa della realtà di Dio che è la Chiesa, ha anche con chiarezza proclamato che la pienezza dell'itinerario in Dio non si compie se non passando attraverso questa porta, dice lei, che è la Chiesa. Diamo lettura a un testo dalla lettera 371, breve testo, in cui la Santa proclama che come né uno può tornare a gustare la bellezza di Dio nell'abisso della Trinità senza il mezzo di questa dolce sposa, però che tutti ci conviene passare per la porta di Cristo crocifisso, e questa porta non si trova altrove che nella Santa Chiesa. Questa è un'affermazione che per i credenti, come ripeto, è ovvia, ma è di lì che bisogna partire per capire quello che ha fatto e ciò in cui ha creduto e l'oggetto della sua profezia, perché Santa Caterina da Siena ha proclamato attraverso i suoi scritti questa realtà da cui la fede non può prescindere, che è appunto la Chiesa. Conseguenza di questa necessità della Chiesa per arrivare fino a Dio è questo altro elemento, che se un cristiano si disgiunge volontariamente dalla Chiesa, c'è in lui un inaridirsi, cioè la sua stessa realtà cristiana non sussiste più. Faccio una parentesi. Noi leggiamo dei testi. Quando si leggono dei testi bisogna soprattutto recepirli per quello che essi dicono. Non dobbiamo noi mai leggere i testi quasi col dispiacere se questi testi non dicono quello che noi vorremmo. Questo procedimento è un procedimento lesivo della cultura. Se noi leggiamo un testo dobbiamo capirlo per quello che esso dice. Allora, come corollario a quella prima breve pagina della lettera 371, in cui viene proclamata questa gerarchia nelle tappe del cammino verso Dio, Dio, Cristo, la Chiesa, passaggi assolutamente obbligati, risulta che è impossibile il distacco da questo tramite verso Dio che è la Chiesa. Se il distacco si compie, allora la stessa realtà cristiana inaridisce. E quello che doveva essere un elemento della Chiesa non è più, perché in lui si spegne il vincolo con la fonte della sua stessa realtà come cristiano. Dice ancora la Santa, nella quale vigna la Chiesa simbolicamente è piantata questa vite dell'unigenito mio figliuolo, è Dio che parla alla Santa, in cui dovete essere innestati. Non essendo voi innestati in lui, siete subito ribelli alla Santa Chiesa e siete come membri tagliati dal corpo che subito imputridisce. Questo discorso imposta esattamente i termini del problema per ogni cammino di fede, per ogni credente, per ogni cristiano. Perché si può essere credenti o si può non esserlo. Ma se lo si è, bisogna esserlo secondo i contenuti della fede. Altrimenti si va. Altrimenti siamo qui tutti a ingannarci, diciamo. Allora, qual è il motivo per il quale imputridisce, come dice la Santa, un cristiano che spezza il vincolo con la Chiesa? Qual è il motivo? Non è un motivo umano, non è un motivo, per così dire, organizzativo. Allo stesso modo che uno fa parte di un gruppo, fa parte di una società economica, supponete, si mette fuori, resta solo, invece gli altri sono accorpati tra di loro, l'unione fa la forza e quindi gli altri rimangono forti. Chi esce da questa società di tipo umano, stiamo ipotizzando, di tipo economico, facciamo per dire, diventa debole e imputridisce. Ma non in questo senso, perché potrebbe anche capitare nei rapporti umani che uno magari si faccia forza e crei delle cose uscendo dalla società. Ma per quanto riguarda il rapporto con Dio attraverso la Chiesa, il fatto di morire, di spegnersi, deriva da questo. Che quella realtà di Dio mistica che secondo la fede unisce le anime non c'è più ad animare il cammino, l'itinerario di questo individuo che volontariamente. Ed ecco allora che riusciamo bene a capire questa immagine di origine biblica che poi è quella della vite e dei tralci usata da Santa Caterina, che molto spesso ricorre alle immagini bibliche. Nel primo brano di cui abbiamo fatto la lettura era l'immagine della Chiesa come sposa. Questa è un'immagine che percorre tutta la Bibbia per l'Antico e per il Nuovo Testamento. Qui la frase di Cristo, io sono la vite e voi i tralci, è ripresa per spiegare attraverso questo simbolo una realtà che attiene squisitamente alla fede. Questo per quanto riguarda i contenuti della fede. Ciò non toglie però, questo è il primo punto della nostra esposizione, fede in Dio, in Cristo, nella Chiesa. Se si esce da questa realtà che in forza della forza di Dio lega gli spiriti, allora si è come delle membra morte, perché la vita non fluisce più, non c'è più questo elemento mistico che unisce il cristiano a Cristo attraverso la Chiesa e il tutto a Dio. Tutto ciò, questi contenuti di fede, questa proclamazione chiarissima, a un altro punto la Santa dice: perché la Chiesa è esso stesso Cristo. La Chiesa è Cristo stesso che si fa presente, c'è questa, secondo la fede, no? C'è questa vicenda di Dio che si rende presente attraverso dei mezzi che poi sono umani. Dio si rende presente, secondo la fede, nell'Eucaristia, attraverso il pane e il vino. Dio si rende presente attraverso la parola liberata che è nella Bibbia, che è parola umana, congegnata con mezzi umani, che si attua attraverso metafore e simboli umani, legata a una determinata cultura che è umana. Orbene, come attraverso il pane e il vino Dio si rende presente? Dio attraverso il sacramento. Come attraverso la parola biblica si rende presente Dio nella sua verità? Così, nella prassi, nella realtà delle cose, Dio si rende presente attraverso questo insieme di uomini che forma la Chiesa. Questo è il contenuto della fede. Ciò non toglie che Santa Caterina riesca a leggere la dimensione umana di questa realtà che è la Chiesa. Perché se c'è questa dimensione mistica, divina di essa, in cui bisogna credere e dalla quale non ci si può staccare, c'è anche una dimensione umana. Questa è assolutamente incontestabile, perché che ci sia questa dimensione umana con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, questo è mille volte provato dai fatti della storia. E di queste cose la Santa parla. E infatti c'è un lungo brano che io non leggo, ma un punto io isolo. Prima di rivolgere questa preghiera, Signore mio, volgi l'occhio della misericordia tua sopra il popolo tuo e sopra il corpo mistico della Santa Chiesa. Prima di rivolgere questa sentita, appassionata preghiera a Dio, la Santa parla della lebbra della Santa Chiesa, cioè questo elemento del peccato che la devasta, questo elemento della sua debolezza, della sua condizione umana. Sarebbero tanti i testi. Un altro dice nel dialogo: ma mira e vedi come la sposa mia ha lordato la faccia sua. C'è questo senso del male, della debolezza, che è riconosciuta, ma nel contempo è presentata come elemento che non deve impedire questo cammino, questo itinerario mistico dell'anima verso la pienezza di Dio. Viene poi anche descritta questa dimensione umana della Chiesa, che completa il quadro che abbiamo tracciato. Prima abbiamo visto i contenuti propri, specifici della fede. Ora ci sono degli elementi precisi, io ho isolato alcuni testi dalle opere della Santa, che pongono in risalto, così per cenni, fugacemente, quelle che sono appunto queste dimensioni umane: la debolezza, la colpa, il segno che la Chiesa è una struttura voluta da Dio, ispirata da Dio, ma composta da creature umane. E parla, ho isolato tre testi brevissimi, in cui parla prima dei francescani, poi dei domenicani e poi dei prelati della Chiesa. E la critica che la Santa fa ai due ordini così gloriosi è una critica tutta incentrata sulla colpa della disobbedienza di cui essi si rendono, secondo la sua analisi, colpevoli ai suoi tempi. Qui, io cito, ad litteram dice, sempre cito, dal dialogo cito in questo caso, dice, i francescani sono moltiplicati in gente e venuti meno in virtù, non per difetto della navicella, ma per gli disubbidienti sudditi. Questo stesso cenno, cioè questo incentrare la fonte della dimensione, diciamo, umana, di debolezza, di colpa, sulla disobbedienza, è un fatto che, insomma, mi ha quasi colpito. Dice, parlando dei domenicani, prima accenna a il peccato della superbia, che sarebbe la derivazione della cultura intesa come fonte dell'orgoglio, ma è un breve cenno, poi dice, e trapassando il voto dell'obbedienza, rare volte è che non si trapassi quello della continenza e povertà. Ma all'origine c'è questa colpa della disobbedienza. Per quanto riguarda i prelati, invece, non ho presente il testo, ma lo ricordo bene, dice che questi prelati studiansi solo di avere grossi cavalli, cioè sono nel lusso. La loro colpa sarebbe l'offesa alla povertà. Cioè essi cercano dei traguardi che sono assolutamente lontani da quelli con cui si compie il cammino verso l'esperienza di Cristo. Vogliono soltanto avere dei vantaggi di ordine terrestre, ma allora non si vede che cosa serve essere ministri della Chiesa di Cristo. Questa è l'analisi che la Santa compie. E voglio ancora porre la vostra attenzione sul fatto che negli scritti della Santa sono presenti questi due elementi, cioè una proclamazione, abbiamo visto nei primi testi, assolutamente chiara, perfetta, dal punto di vista della fede, di ciò che la Chiesa deve essere per il credente. La Chiesa è esso stesso Cristo, dice la Santa. Quindi, nella sua pienezza, nella sua realtà più vera, la Chiesa è Cristo che permane nel mondo. Tuttavia, siccome Cristo si manifesta attraverso queste realtà umane, abbiamo detto come avviene nell'Eucaristia, come avviene nella Bibbia, così si manifesta attraverso questo insieme di uomini che hanno le debolezze, le colpe e il peccato. Subito viene però precisato che, nonostante questa dimensione assolutamente innegabile, vera, verissima, questa dimensione di colpa che accompagna la vita della Chiesa, bisogna che il credente non si faccia confondere da questa realtà di debolezza e di colpa che accompagna sempre la vita della Chiesa. Perché l'errore che può essere fatto, e che tante volte è stato fatto, è di perdere la fede in quella dimensione, in quella realtà, in quel contenuto divino, mistico, cristico, diremmo noi, no? La Chiesa è esso stesso Cristo. Di perdere la fede in quel contenuto, in quel dono fatto da Dio e proposto da Dio agli uomini, perché poi questa realtà viene confusa, accolta, comunicata, vissuta da individui che portano in sé il segno della colpa e del peccato e della debolezza. E allora dice la Santa, a cui me lasso le chiavi di questo sangue, al glorioso apostolo Pietro e a tutti gli altri che sono venuti o verranno di qui all'ultimo dì del giudizio. E per nessuno loro difetto non diminuisce questa autorità. O, come qualcuno potrà dirmi, me lo direte dopo se vorrete, mi capita, io credo, di dire delle cose assolutamente note a voi. Le avrete sentite altre volte, forse i giovanissimi che sono qui a sentire avranno sentito il catechismo alla scuola di religione, ma noi stiamo ricostruendo attraverso i testi quello che la Santa ha insegnato intorno alla realtà della Chiesa. I testi dicono così. E che la sua grande esperienza poggi sopra questi elementi basilari dice a noi che essi sono veramente fondamentali. Così nella lettera 28 proclama: stolto è colui che si dilunga o fa contra questo vicario che tiene le chiavi del sangue di Cristo crocifisso. Ezion Dio, se fosse demonio incarnato, io non debbo alzare il capo contro a lui. Egli ha la potenza e l'autorità, e veruno è che gliela possa torre dalle mani, perché gli è data dalla prima dolce verità. Quindi esiste questo dualismo, diciamo, questo che è un nodo della condizione cristiana, che può sembrare di conoscere già, ma in realtà il nodo si presenta continuamente a tutte le generazioni cristiane, a tutte le età della vita, e bisogna che il problema sia capito e sia colto. Il nodo è questa compresenza, no? Nella realtà della Chiesa, della presenza di Dio, diciamo, no? Della realtà divina, e invece di quella che è la dimensione umana. Ora, mi sembra, anche solo per cenni, di aver detto ciò che la Santa sente e insegna, la sua profezia intorno alla Chiesa. Nella seconda parte di questa mia relazione io vorrei dirvi che cosa è avvenuto concretamente nella vita della Santa, cioè che cosa ha fatto lei in conseguenza di questa sua visione, come ha impostato la sua attività, come mai noi, tanti secoli dopo, gli studiosi prima di noi, hanno dato importanza a Santa Caterina. Avrà fatto pure qualcosa, certamente, ma nelle relazioni di questa mattina abbiamo sentito il tipo di attività sua. Ma noi dobbiamo chiederci che rapporto c'è tra la sua fede e la prassi della sua vita. C'è un collegamento. Questo collegamento di che tipo è? È un collegamento logico? O invece c'è qualcosa di spostato? O invece c'è qualche nodo per cui non si riesce a capire il rapporto fra questi due atteggiamenti? È un rapporto o è soltanto una giusta posizione? E come influiscono queste sue certezze in lei? E infine, ma qui è soltanto una proposta di discorso comune, allarghiamo il nostro quadro, non stiamo soltanto al caso di Santa Caterina, guardiamo alla condizione cristiana di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Che rapporto c'è tra la fede che uno deve avere nella Chiesa, in questi vari elementi che la costituiscono, o se vogliamo ancora, qual è il tipo di fede che occorre avere nella Santa Chiesa per essere all'interno dell'esperienza cristiana? E da questa convinzione quali conseguenze derivano? Come deve essere la prassi? La prassi dell'individuo, la prassi delle strutture, la prassi delle società, il privato, il politico, il sociale, l'economico. La condizione cristiana come si attua? Questi elementi della fede come influiscono sulla vita? Come entrano nell'esistenza? Come devono entrare? Entrano in un solo modo, in tanti modi? È possibile cambiare? C'è da aggiustare il tiro volta per volta? C'è da esaminarsi? Guardate quanti temi di discussioni potrebbero essere affrontati e divenire oggetto di discorso. Però io non voglio assolutamente, neanche di un attimo, passare il tempo di questa conversazione, e li ho proposti a voi soltanto come magari punto di incontro dopo del nostro comune conversare. Adesso, come ha fatto Santa Caterina? La sua attività per quanto riguarda i problemi storici allora aperti, il papato avignonese, le lotte fra le varie città d'Italia, il suo entrare nella concretezza dei problemi della vita è tema e sono fatti di cui già si parlò questa mattina. Io vorrei, sempre sulla base dei testi, vorrei porre in risalto alcuni elementi di questo suo modo di agire all'interno della Chiesa e noi crediamo in conseguenza delle cose da lei credute, come applicazione di esse. Anzitutto, mi sembra di poter cogliere dai testi, come si leggono dalle lettere, come si percorrono nelle varie edizioni poi che sono state fatte in questi ultimi anni, mi pare di vedere nel comportamento della Santa questo elemento fondamentale, per cui è assolutamente lontana la Santa dal volto che la cristianità ha offerto, ad esempio, in questi ultimi 20 anni. C'è in me una sicurezza assoluta, l'assoluta mancanza di oscillazione psicologica e intellettuale. Su questo elemento mi sembra di poter insistere, perché è dedotto anche da una delle pagine che un cardinale, si chiama il cardinale Capecelatro, studioso dei testi e dei fatti attinenti alla vita della Santa, ha posto in risalto. C'è una pagina molto lunga, io non ve la leggo perché sempre ho paura di oltrepassare il tempo, però vi leggo l'inizio e la fine. Dice il cardinale Capecelatro così: quando i bisogni della cristianità sono gravi ed il malfare, il misfare è proceduto di troppo, l'universale desiderio della riformazione rende audaci coloro che vestono il paglio di riformatori, incauti i fedeli a discernere tra buone e malvagie riforme. Alla fine, dopo aver descritto tutta questa vicenda e documentata nei secoli, parlando invece dell'atteggiamento assolutamente contrario di Santa Caterina, dice che può accadere, in conseguenza di questa oscillazione intellettuale e psicologica, dice, può capitare questo: allora gli uomini, smarrita la luce della fede, non hanno altra via che quella del continuo ed angoscioso dubitare. Questo è il punto che io ho isolato. A me pare, se la mia analisi è sbagliata, poi ne riparleremo, mi pare che la cristianità in questi ultimi anni, nelle esperienze degli ultimi 20 anni, supponete, è approdata a questo punto, a questo continuo e angoscioso dubitare. Questo che io dico non è affatto un atto d'accusa, sia chiaro, è una semplice, vorrebbe essere una semplice constatazione. Tutto questo entra, secondo la fede, entra in un piano di Dio, in un tessuto complicatissimo, come è il piano di Dio nella storia del mondo. Noi vediamo soltanto alcune tessere di questo mosaico, il mosaico composto da Dio nella storia del mondo, ma mi sembra che una tessera di questo mosaico, noi l'abbiamo vissuta, sia questa, questo continuo ed angoscioso dubitare. Ora, nella esperienza di Santa Caterina, dobbiamo dire che la Chiesa non era certamente in condizioni tali da non avere bisogno di riforma. Abbiamo sentito la conferenza sulla crisi del 300, no? E quindi ci sarebbero state le condizioni che forse che ci sono ai nostri tempi e dalle quali probabilmente è nato il nostro continuo ed angoscioso dubitare. Ma nella esperienza di Santa Caterina non fu così. Questo è un elemento che io vorrei porre in risalto e su cui fermare l'attenzione. Cioè, identità di situazioni storiche, naturalmente nella diversità del contesto storico si capisce, ma identità di un'attesa di rinnovazione, di riforma. Però, che cosa fa Santa Caterina? Santa Caterina entra in questo itinerario di riforma, diciamo, in questo desiderio di rinnovazione, diciamo, no? Entra, ma resta sempre, è assolutamente lontana da questo stato d'animo, che è appunto il continuo ed angoscioso dubitare, assolutamente lontana. E in questo senso, e sotto questo aspetto, è diversissima da noi, diversissima da quello che è stato il volto offerto dalla cristianità in questi ultimi 20 anni, perché mi sembra che non sia dubbio che è nato questo continuo e angoscioso dubitare, ripeto, non faccio atto d'accusa, è una situazione. Ma se noi leggiamo le lettere, vediamo questo entusiasmo, questo profluire continuo delle certezze in lei, questa abbondanza di sicurezza, fondata anche, soprattutto i primi due passi di cui vi ho dato lettura, fondata su quella visione assolutamente sicura della realtà di Dio presente nel mondo e per la quale i meccanismi dei comportamenti umani devono, all'interno della cristianità, devono essere assolutamente diversi e devono avere altri fondamenti, altri oggetti della speranza. Ecco. Allora, questa sicurezza assoluta, da cui nascono determinati atteggiamenti che nei testi sono documentati. Ad esempio, una grande libertà di espressione di fronte al potere. Io non so se allora, ma non credo, insomma, se allora i potenti all'interno della Chiesa consentivano che i sudditi, Santa Caterina era un personaggio singolare, non c'è dubbio, però, insomma, io leggo con stupefatto brani come questi, in cui ammonisce la Santa il Papa Urbano VI, che erano notoriamente, stamattina ha detto anche il professor, quello che ha parlato, Cardini, che è un cracheraccio, ma credo proprio. Allora la Santa dice: mitigate un poco, per l'amore di Cristo crocifisso, quelli movimenti subiti che la natura vi porge. Cioè, a quest'uomo veniva la mosca al naso subito, insomma. Ora, un Papa, insomma, non lo dovrebbe fare. E la Santa scende anche a questi dettagli di intervento, con assoluta libertà. E questo Papa si vede che è vizioso, no? Faceva degli interventi dettati dall'ira. Ora, un Papa che fa così, via, insomma. Beh, un Papa può avere anche difetti peggiori. Ma se ha questo, può anche liberarsene. Ed è stupefacente, secondo me. Permettetemi una parentesi, io ho letto questi giorni molti dei testi, ne ho isolati alcuni, perché mica mi potevo dire tutti, e questo, dove la Santa dice, insomma, al Papa di moderarsi un po' nel suo carattere, perché tutto questo sarebbe oltremodo nocivo alla sua missione, però in libertà assoluta, con spirito libero. Lei che aveva quella fede così grande nella Chiesa, lei che vedeva la Chiesa come esso stesso Cristo. Ma vedete come questa fede profonda, proprio da questa fede profonda, nasceva in lei questa libertà assoluta di espressione. Fate una riflessione. Può esserci stato in quei tempi, in tutti i tempi, qualche diplomaticone all'interno anche delle strutture della Chiesa, che magari di fede, lasciamo perdere. E questo mai probabilmente si sarebbe permesso di fare un appunto di questo genere al Papa. Non avrebbe fatto altro che delle flessioni più del richiesto, che sono già parecchie quelle che bisogna fare, almeno allora, o anche quando ero giovane io. Ma invece no, qui c'è questa libertà che sgorga dalla fede, E c'è anche un altro punto, questo per la verità è un altro, nella lettera 302, un punto su cui io ho sentito parecchi problemi annidarsi nelle parole, tutti io non li ho risolti, e magari il padre Enrico di Rovasenda ci aiuterà dopo, che conosce così bene i testi. Dice la Santa, sempre rivolgendosi a questo Papa, si vede che lo voleva sistemare un po', insomma, e dice: voi siete padre e signore dell'universale corpo della religione cristiana. Tutti siamo sotto l'ale della santità vostra. Ad autorità potete tutto, ma a vedere non più che per uno. Cioè, è notata questa dicotomia, questa differenziazione, no? C'è nel Papa, senza dubbio, la sede, il Papa è la sede della realtà stessa di Cristo, no? Di cui lui è tramite. La Chiesa è esso stesso Cristo, il Papa diventa quindi il tramite di Cristo. Ad autorità potete tutto, naturalmente non si parla di autorità umana, ma di potere vicario in nome di Cristo. Ma dice, ma a vedere non più che per uno, cioè c'è un limite, anche il Papa sa quelle cose che sa, non più che uno. Io qui vedo un nodo problematico, insomma, perché che poi è in fondo la presenza dei due poli perenni della condizione cristiana, la realtà di Cristo e la realtà umana. La realtà di Cristo creduta e considerata elemento che sta alla sorgente di ogni esperienza cristiana, altrimenti è inutile, si pianta di tutto e basta, ma nel medesimo tempo la sensazione dei limiti e questa fusione, dice, anche nel Papa, in cui risiede la pienezza stessa di Cristo, di cui lui è vicario, esiste questo elemento del limite assolutamente umano, quanto a vedere non più che per uno. E è un segno questo di una libertà espressiva, molto più che invece nel suggerimento di prima, in cui dice al Papa, insomma, moderate, non fate il vizioso, eccetera. Ora qui, non più che per uno. Onde è di necessità che i figlioli vostri vedano e procurino con schiettezza di cuore, senza timore servile, quello che sia a onore di Dio, a salute, eccetera. Quindi si proclama la necessità di un intervento da parte dei credenti, da parte di quelli che noi possiamo chiamare la base, per esprimerci così. Ma i figlioli vostri vedano e procurino. Questo è un altro elemento importante. Non si tratta soltanto di vedere, di riferire quello che il limite umano suo, in questo caso del vicario di Cristo, non può fare, ma procurare. Si passa quindi anche a indicare una dimensione attiva, pragmatica, nel discorso della Santa. Se c'è però un elemento sul quale la Santa è stata assolutamente chiara, è questo, che bisogna sì agire, procurare, compiere interventi, però in vari testi che adesso vi leggo, molte volte ha escluso l'intervento, come dire, alla disperata, dice non con guerra, non con coltelli, dice, per quanto riguarda questo tipo di intervento che deve essere fatto perché all'interno della Chiesa si compia questa riforma che pure deve essere sempre fatta. Ora, attraverso questi modi, pare di avere ancora 8-9 minuti, attraverso questi atteggiamenti noi ci chiediamo a che cosa mirava poi Santa Caterina. Mirava a una rinnovazione totale, a una palingenesi. Il suo discorso era il discorso di Gioacchino da Fiore, era il discorso degli spirituali all'interno dei francescani, no? Era un discorso riferito all'elemento ultimo della condizione umana, era una volontà di anticipare quella che sarebbe stata la condizione definitiva, a cui noi secondo la fede saremo chiamati, alla pienezza della creazione nella sua perfezione totale. Era, peraltro, un ritornare a quello che può essere chiamato il mito, io credo, della Chiesa primitiva, in cui tutto era perfetto, tutto era una comunione sia di beni, di perfetta carità. Era un riferirsi a questi due estremi, non mi pare, perché né l'uno né l'altro degli elementi sono presenti, o almeno sono presenti in modo particolare negli scritti della Santa. La Santa, anziché rifarsi al mito, chiamiamolo così, oppure all'ideale, diciamo, delle origini, descritto nel libro degli Atti degli Apostoli, o volere assolutamente anticipare una condizione che secondo la fede non è del tempo presente, ma sarà della condizione ultima e definitiva, quando ci saranno i cieli nuovi e le terre nuove, di cui parla l'Apocalisse, anziché riferirsi a questi due elementi, di fatto la santa entra nel concreto delle cose, affronta i problemi precisi, quotidiani, quelli di come deve fare il Papa per venire da Avignone a Roma, quello di quello che bisogna fare per organizzare bene la conquista dei popoli alla cristianità attraverso la crociata, i metodi da usare, le vie da percorrere per far andare d'accordo le famiglie sempre in litigio di Siena o di Firenze, quello che bisogna fare per quell'individuo concreto, per quella concreta situazione. Agisce, fa, interviene. Ma qui nasce veramente, secondo me, il cuore del problema. Il cuore del problema. E enunciando il problema, io mi avvio alla conclusione. Enuncio il problema. Dalla fede, sinceramente accolta e sinceramente creduta, diciamo, da questo complesso di realtà divine, di ordine mistico, esistenti nella Chiesa, deriva veramente, cioè cosa deriva, mi chiedo, cosa deriva in ordine al temporale, al concreto, al pragmatico, cosa deriva? Derivano delle soluzioni precise, immediate? Deriva solo una ispirazione? Che rapporto ha questa fede con la concretezza del temporale? O il temporale, cioè le cose concrete di questo mondo, hanno le loro leggi, i loro meccanismi, le loro norme, un modo di disporsi. Il cristiano che cosa fa di diverso dagli altri? Cosa deve fare di diverso dagli altri? Come deve comportarsi? Ha un modo suo di comportarsi oppure no? Ci sono delle soluzioncelle, diciamo, scaturienti dalla fede come tale per queste cose? Ecco, questa è tutta una serie di problemi di ampia dimensione, sempre sentiti dai cristiani di tutti i tempi e che mi sembra possano essere evocati dagli scritti, almeno da quelli che abbiamo esaminato, e dai comportamenti della santa, la quale può benissimo essere elencata tra i vertici dell'umanesimo cristiano anche per questa sua capacità di ricondurci alle dimensioni ultime e ai problemi costitutivi di quella che è la condizione cristiana. Io ho finito, adesso possiamo proseguire. Grazie di questa relazione tanto stimolante, che a me pare è arrivata anche al cuore attuale del problema, no? Quello della riforma perenne della Chiesa. Quale Chiesa? Ah, e di una vera o falsa riforma della Chiesa. Il libro di Congar certamente a questo riguardo rimane sempre indicativo. Adesso io vorrei sondare però tra di voi, perché nel frattempo la direzione di questa casa, proprio in vista della discussione, avrebbe messo a nostra disposizione una sala più adeguata, la sala De Gasperi che sta di sopra. Ditemi voi se optate per un trasferimento lì o se pure, insomma, concentrando un po' la buona volontà, sviluppiamo la nostra discussione qui dove stiamo senza ormai spostarci. Rimaniamo? Ci trasferiamo? Alzi le mani chi vuole il trasferimento. Sono pochi. Volevo un plebiscito io casomai, no? E no, guardate, allora concentriamoci un po' qui davanti, credo anche che appunto questa sia un'indicazione che la discussione non può andare per un termine di tempo troppo prolungato, quindi cercheremo anche di contenerla nel tempo, però mettiamo l'altoparlante là, forse lo metto giù perché... patria, coordinando in letteratura medievale l'Università di Chieri. E vorrei dire un problema che ho avuto adesso in primo relatore, che trasferendo alcune delle problematiche preliminari al nostro tempo, chiedeva ma qual è il rapporto tra chi gode della fede cristiana e il mondo che affronta i problemi di quelli della politica, dell'economia? Qual è questo rapporto? C'è una specificità, c'è una origine. Allora, certo, il problema di Caterina, anche se dice pubblicamente, cioè la nostra trasferiva dal nostro tempo, cercando di vedere se la vita di questa donna può essere assunta a modello dei nostri comportamenti oggi, e certo, il problema anche solitamente è vero. E io devo chiedere due cose a lui, che devo capire la capitiva, insomma, in generale, anche a lui. C'è un problema più generale, un problema di tipo teologico, e un problema più storico, e una cosa che si dice in particolare. In realtà, come accennavo a fare appunto questa storia adesso, e come non si è molto fatto in questo periodo, mi pare che nella autoconoscenza di Caterina e nei istituti contemporanei si ricorda spesso nel definire la donna con i termini di provenienza. Come già si era fatto e si faceva per chi aveva vissuto immediatamente per la donna. Questa donna appare che sia una donna singolare, certo, sana, portata del malinico, del partito, ma appare la sua caratteristica di essere di madre. E quello su cui è la storia di madre più difficile tra i lavoratori, su questo carattere. Cioè, cosa probabilità? Cosa vuol dire profezia? Cioè, si può dire una parola di quello che è la storia di questa paura. Cioè, la profezia che noi sappiamo è carisma, cioè è il dono dello spirito. Non guarda tanto le sanità personali, ma guarda la capacità per l'insegnante, per il nome, per lo spirito, per il carisma, di dare la storia. Questa è la profezia, e c'è da dire questo, in parte, la maggiore della donna domanda, è il modo che accettiamo di dare la storia. Non di farla allora di tutto, di capire quali sono, di capire forse uno, perché come la santa che imparava tanto, poi come si dice la storia di un uomo. Ci devono un po' di dare la storia che lo fa questo dal male, cioè, che è un solo. Ma la cosa che può darsi, per esempio, è una parola che riesce di capire quelli che sono i colori di un mondo dell'umanità, quindi in un punto concreto. La santa si dava una storia, si diventava a leggere singole persone attimunissime, persone importantissime, non si dice niente, ma è così. E questo poi lo poteva fare, non è il suo scelta, ma anche poteva fare. E appunto il carino proprio diceva di dire le persone appena conosciute, più o meno conosciute, tu fai così. Ma poi dico, tu fa bene la donna, fai che te il codice non è vero, la donna come questa, che non era assolutamente ignorante, ma per neanche vero, la scelta della politica fatta da donna, la politica del genere, la politica reale, ma insomma, non sapeva quanto era la politica reale che stava a tutto il reattore di Europa, che era l'Europa, che fare tutto il mare colato. Quindi siamo presenti nel secolo, certamente di crisi, ma appunto di crisi, quindi vuol dire che il vecchio muore e il nuovo non si vede ancora. Questo vuol dire la crisi, non è che il mondo deve essere liberato, non sapevo benissimo che il mondo esce sempre, perché è un brano che esce sempre con la vita. Quindi il mondo non viene ancora questa crisi, questo secolo le cose diventano competenze. Quindi le cose di un secolo non ha assolutamente straordinario. E questo è quello che dice a questo motore particolare, perché il padre della gente, il padre dell'altro aspetto, la spiritualità. soltanto un aspetto storico, civile, profetico della Santa, è una categoria sociale. E non vuol dire fare il figlio. Non dico che questo messaggio politico, tutti dicevano politico, ma tutti dicevano per cui questa politica particolarista che è, per dire se posso usare questo nome. E la politica, e poi ci dicevano questo nome. Se ricordo bene, è una cosa che forse il professor Mattoni può dire, però, se non mi ricordo che il messaggio di Caterina e di Caterina è tutta dentro di me, non dice mai che alla fine tu parla con il mio lavoro. Tu Papa dentro di me a Roma, il mondo cristiano dell'Europa deve essere in pace e in quanto in pace si deve fare la crociata per fare la difesa, come deve essere il mondo di loro cristiani. E questo è il programma profetico che sulle due punte si avrà, le altre punte sono tutti, perché la pace tra i popoli tra l'Europa, perché la carità l'hanno dato la luna a Roma, io sono certamente un modo di fare il cielo, nel dire che questa realtà anima per l'Eucaristia, anima comune. Quando noi la vediamo, magari la vediamo, a distanza di sé, avvengono delle cose che sono più come delle cose di sé. Questo per dire, non so se per dire, o se invece è un elemento verifico. Abbiamo fatto il problema che ogni tutti si tutti converge a partire. Sì, quella vicenda del nostro campo, la vicenda di è stata una vicenda profetica. Ma quando poi si tratta di concretare in che è consistito questo sentimento lo è. E si ha l'impressione che si trova con il sopravvivente non si dice ma tutti lì tutto un insieme di cose fa nascere in noi l'impressione che una condizione di Dio almeno dopo secoli tutto il mondo sarebbe andato lì a impegnare la religione di San Marino. Pensiamo a non è facile entrare in termini umani, concretizzare in termini umani quello che è stato l'apporto di, diciamo, oggi si avvera che c'è stata questa condizione. Secondo me, diciamo anche che questa profezia è entrata nella profondità del cuore e ha inciso nella leggenda misteriosa e mistica del cuore. Quando non c'è cosa che comprendiamo il cammino? Magari se facciamo un po', riferimento a tradotti espressivi umani, abbiamo l'impressione che non c'è più nessuno, che sanno per prima, si è c'è uno storico che ha scritto molto su Santa Caterina, per esempio di Cigliani, di Cigliani, che dimostrano che c'è un po' di che non c'è una cosa di Santa Caterina, e di fuori dimostrano la sua, il suo cammino, le generazioni cristiane. E se non c'è solo sì, l'idea che la Maria continua appunto, lui è ancora vivo, ha appena fondato l'ordine, quasi altri, cioè, quello che dovete dire, la profezia è una cosa di Dio. Questa si compie. Si compie sempre noi, non perdiamo per canali sul mondo. Ma riusciamo a comunicare con il mondo, con il cuore di Dio, proveniente dal cuore di Dio, non è le loro per il nostro cuore umano, non è una caratteristica della protezione. Grazie. Grazie. C'è qualche altro elemento? Sì, è molto interessante quello che ha detto il professore. Io leggo un po' con l'esistenza, un approfondimento antropologico della cultura di Internet, perché ho un po' l'impressione che mi è sempre stato un genere sul quale io ho dovuto creare il genere che è quello di dire la visione profetica. Ma per dire che non mi sembra che ho detto io non ho detto le relazioni sulla destra, sull'azione, la mia vita è difficile non riconoscere che c'è una anche la capacità della religione politica di Caterina di Russia. Vorrei pensare che una persona che parla con uno del suo tempo, no? Ecco, io penso che si possa anche creare Caterina sotto la dimensione del tempo. Genio, io credo certamente, genio, perché in modo con cui scrive, con cui contiene il pensiero, dal punto di vista poi delle capacità politiche, dobbiamo sempre intenderci sul termine. Io, per poco che so, avrei capito. Se è vero, quello che ho avuto il sogno, e che poi ho ripetuto anche in una lezione, che il Papa, per la decisione più morendo, avrebbe detto ai suoi consiglieri di guardarsi dalle mie idee, da le mie parole, e poi disse a lui che non si deve dire a lui cosa volevo dire di fare. Volevo buttare a terra che fosse un genio, che fosse la profezia di Dio, non lo so. Poi aveva detto insomma che quando si entra nei misteriosi meandri, nei concreti, quotidiani concreti, esistono comportamenti tali per cui alcuni sembrano avere il genio politico, la capacità di ritornare per sempre, di risolvere sempre, forse anche per la favorevole e favorevole combinarsi delle circostanze, ma comunque alcuni uomini possono essere come il genio politico. Questo è tutto il genio, io non so. Ma il genio profondo non lo ha chiesto la parola al padre di Tomasella e penso anche che per considerazione alla bontà e alla pazienza di presenti, se non ci sono interventi superlativi proprio di presenti, con la sua parola penserei di concludere, salvo essere singolarmente a disposizione per domande di vorrei avere quest'ultima domanda e poi vedere ancora su questo problema della politica. Rispetto a quest'ultima domanda che la dice anche il progetto il Papa di perciò avere la piena di andare a trattare cioè a parte del Papa è un'espressione. Quindi c'è allora un riconoscimento da parte di Papa. D'altra parte, perché venivano a conoscere che non faccia le vie, che avevano pregato per la Sina di andare alla riunione, per poter fare la pace. Quindi vedo la riunione. La generalità del resto con cui esce, non so, tutti dovrebbero lasciare. Fare anche che non sta succedendo. È un problema complesso che la facciamo e che i presidenti bisogna ricordare bene, ma non c'era tutti i tempi di facciamo. E anche che abbiamo i diritti e la cosa non possiamo dire di questa facciamo. Ma senza vedere appunto la facciamo, sotto due aspetti, io mi sto che la guerra la trovo. Secondo me è importante una cosa di Cristo, diversificando anche i diritti. Ora, per esempio, è stato vero di trovare la chiara legge dei fatti, la chiara legge della verità, la chiara legge dei cantanti, la chiara legge dei genitori della cittadinanza, a tutti questi, da poter arrivare a quello che non sono le cittadinanze, da prima che queste lettere erano accettate, erano studiate, anche se non erano ovviamente difficili. C'è stato un rapporto vero di continuo con la società del tempo che dimostra la genialità, la capacità di intervenire. Certamente poi il carisma maggiore è il carisma della profezia, ma io vorrei dire allora che se torniamo per la vita da prima per un momento che non avete un cristiano, che ci avete messo voi. E io condivido e dice questa mattina che fare in questa prospettiva. Se siamo per vita con un genio, per l'umanesimo, un umanesimo, dobbiamo vedere questa vita, concordare insieme dei valori azionati e di valori che sono perché questo è il noi non siamo per essere dei valori umani e dei valori cristiani. Anche di avere come fatto storico, organizzato, insomma, non è importante per la cultura, ma sempre messo insieme dai singoli cristiani, dai singoli pagani, perché è giusto davvero questo accordo, insieme a una ragione, tra l'intenzione di volente umana e la violazione di Dio. Quindi io penso che veramente Caterina deve essere provocata dal cambio di Dio. E proprio per questa ragione è realizzata una fisica, valore di umano, valore di umano. Vorrei che mi permettete di dire qualcosa a favore della profezia. Intanto vorrei ricordare che la profezia in profezia non si intende qui come previsione di avvenimenti futuri, ma è di guida, e come è stato detto, di guida dell'agire umano, di guida dell'agire umano sia nella chiesa, della società. Io ritengo che i carismi siano dati sempre perché secondo la chiara dottrina, i carismi sono dati sempre per il bene della vita, ma ritengo che siano dati anche dei carismi a persone che si occupano dei problemi civili, in quanto i problemi civili delle loro soluzioni possono essere riferiti alle loro. Quindi anche delle camminate di quali sono guidate a riferire al bene spirituale del popolo, la loro azione politica, con un carisma. E il carisma, se volete anche commento, quanti carismi sono dati per il bene della Chiesa, guida le soluzioni pratiche. Non dice come l'Antico Testamento, le governi che dovranno avere la guida delle autorità, come assolutamente storico per cui ci ha parlato proprio recentemente il professor Cristo. Vorrei però sottolineare, sempre per non andare fuori del seminario, che bisogna mantenere insieme due carismi, il carisma, la profezia e il carisma com'è. Molto bene, vedo, nella relazione che ha fatto quella. Della lettera di Caterina al Papa, al Papa dice voi siete padre signore e quanto l'autorità di tutto, ma quanto vedere non tutto per lui. Però nella vita della Chiesa e nella vita anche di Stato, nella vita civica, quando non insieme nella vita civica siamo religiosi, che possono diventare anche carino di tutti, religiosi e religiosi. Nella vita della Chiesa la profezia è decisione. Ora, la profezia e l'altro, le decisioni sono date alla vita. Questi due cose devono sempre camminare per poter ottenere le città. Guai alle decisioni che non sono sottoposte al carico di profezia, ma guai al carico di profezia che non è anche accompagnato dalle decisioni. Ora, io che sarebbe non parlare di un paese che è la vita, perché io non ho fatto fallito dal suo compito proprio per il compito della profezia. E che sono anche le decisioni. Non le decisioni che doveva prendere la Caterina, la doveva prendere nessuna decisione. Le decisioni che doveva prendere l'autorità cristiana, sia dall'autorità ecclesiastica, sia dall'autorità civile. La Caterina ha fatto il suo compito per la loro domenica. Per quale per ricordo lo fa loro, che è stato, capito come si è la decisione del Papa. Decisione per un modo di contare, per un modo di dovesse, per cui questo carisma non è stato soltanto così una indicazione, un invito, ma è stato tutto un pressante movimento di Caterina per decidere il Papa, per sostenere le difficoltà. Però è stata la decisione del Papa. Per me, rispetto alle altre cose, Caterina di Chiesa per la pace, avrà la condizione di costruzione, ma magari la decisione della pace. Quindi, possiamo parlare di certi talmenti di un momento storico, ma non è che vuol dire che naturalmente la filosofia di parlare assolto del suo compito, del suo compito che venderà per andare. Quindi in questo momento mi pare di volere prendere, senza poi essere quello che diceva il professor della storia recentemente, intervio questa mattina la conclusione, poi vedranno il successo di questa filosofia, il senso che verranno, forse per il suo tempo. L'opera che la filosofia al popolo e che continua a svolgere, in appunto come ricordava che il Papa è un dottore della civiltà, e questo però è il segno della grandezza, della verità e della sua opera così quello che si dice. Ma poi è la fantasia del popolo di Dio, certamente il concilio parla espressamente del popolo cristiano, del popolo di Dio, non del popolo regale e del popolo profetico. Popolo sacerdotale, popolo profetico. Dove si chiedono queste profezie? Dove si chiedono? Allora, questo è il capitolo che c'è anche in questo giorno del ruolo che ha vita da piedi. Ci sono anche di quelli che possono giorno del ruolo che ha vita da piedi. Ma questo è l'interpretativo, è molto bravo, per dire che giustamente che i carini, i colorati, gli importanti, vengono messi per i camminati, i sanciti, dall'autorità italiana. E questo avvenne nel tempo di Caterina, che i cittadini iniziano a capire la parte dei teologi che erano stati caricati al Papa. E lui è che si poteva dare la fiducia a Caterina da Siena. Quindi queste dame, e anche oggi, noi insieme quando arriviamo a questo momento, però anche in chiesa, se il carino della profezia non sia anche legato alla famiglia. E il Signore è anche fatto pesare la vita, come diciamo, la vita, come si dice, vedete, è avvenuto, è però questo è anche di nuovo, ma parla sicuramente di Signore, di come Caterina, per la gente di come c'è la parola, è lo che sa, la parola è lo che sa, è lo che sa. Thank you.